and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma! Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oggi è una giornata storica perché chiudono le scuole di tutta Italia, o quasi, quasi. Resta solo la Liguria, che va avanti fino al 15 giugno. E Berin. Sono le lezioni di caccia di Rocchetta di Vara, che ritardano la chiusura. Sì. La stagione dei cinghiali non è ancora finita. Ecco, è arrivata già una mail di protesta, hai capito? Si generano automaticamente, appena dici caccia o Rocchetta di Vara, ecco, vedi? Sì, è vero, abbiamo creato però il clima giusto, tutta la 200ª puntata. È così. Ma com'è, purtroppo. Caccia? Sì, vedi. Ecco, vedi? Matteo Caccia. Ah, ma allora anche Matteo Caccia riceve le mail di protesta dei cacciatori. Sì, ogni volta che dice il suo nome. Vabbè, allora smettiamo di parlare di caccia e diciamo che è una giornata speciale perché è la 200ª puntata di Chiedo Asilo, come è stato annunciato in maniera un po' tribale. Grazie, grazie. Prego. Quindi ecco, come di consueto, in casi come questi va ora in onda il meglio di Chiedo Asilo. No, vabbè. Così è una puntata fatta, non ci si lavora. No, il tecnico che avrebbe potuto farlo si è rotto la gamba cadendo dalla bici che gli si è smontata da sotto il culo, quindi non c'è nessuno che può farlo e quindi non c'è nessun il meglio di Chiedo Asilo. Ma come? Ma che programma è? Ma non c'è nemmeno un meglio di? No. Allora facciamo uno aspettando. Chiedo Asilo! E ora, bambini, ricreazione! E meno male che adesso sono all'asilo, perché a casa mia c'è una situazione pesantissima, insostenibile. Ma cos'è successo stavolta? Allora, mia mamma e mio papà, sì, voi già lo sapete, si danno da fare per i bambini africani, no? Ah, ok. Le riunioni, le raccolte di fondi, tutte quelle robe lì. Sì, vai avanti, dai, su. E adesso è venuta fuori sta storia della Onlus. Ah, hanno fatto una Onlus. Che io sta Onlus non so nemmeno cosa sia. Vabbè, una roba. A un certo punto salta fuori questa Onlus e mio papà diventa il responsabile dei fondi di questa Onlus. Che poi fondi, questo l'ho capito dopo, vuol dire soldi, Voi lo sapevate? Sì, sì, soprattutto quando non ne hai, no? Che sei al fondo. I nostri sono quelli, vabbè, non lo sapevi, vabbè. Io non lo sapevo. Ah. Cioè, l'ho saputo dopo. Dopo cosa? Dopo la denuncia. Ma quale denuncia? Ma di chi? La denuncia! Cioè, c'è una denuncia che gira, no? Che aleggia. Ma cosa vuol dire c'è una denuncia che gira, che aleggia? Io non so niente, sono un bambino. Ah, sono certo. Cose che sento dire nell'aria. Quindi, che sento dire magari dei miei genitori che mi svegliano dietro la porta della camera da letto, no? Quindi denuncia. Una denuncia. Ma chi è stato denunciato? Mio papà. Ah, e per quale reato? Ma specie di disguido, no? Tipo che lui si è appropriato illegalmente dei fondi della Onlus. Ah, rubava i fondi della Onlus per i bambini africani. Ma che rubava! Si è appropriato illegalmente. Quindi rubava. Sì. Cioè. Ma è tutto un equivoco, non certo. È vero niente. Vabbè, speriamo, bambino Alberto, perché per certi reati c'è la galera. Quindi addirittura la galera! Come no? L'ergastolo, il 41 bis! Ma no! Vabbè. Allora, ma se vedi che mio padre non c'entra niente! Se lo dici tu. Il discorso parte alla lunga, da lontano. Che a un certo punto, allora, nella Onlus, di cui mio padre è il detentore dei fondi, illegalmente, si è infilato anche Gino il bidello. E Gino il bidello ha convinto mio padre a dargli tutti i fondi. Cioè, a Gino, gli ha detto, dammi tutti i fondi, Sì, beh, ma ha argomentato, Sì, ma perché? Non ho capito. Perché gli aveva promesso, carta canta, cioè nero su bianco, che l'avrebbe fatti fruttare, no? Vabbè, ma alla fine cos'è successo? Allora, alla fine, è successo che il responsabile è mio padre, no? Sì. e adesso sono cavoli suoi. E per la colpa di Gino. Sì, ma non è che ma puoi... responsabile mio padre. Sì, davanti al giudice, però non è che puoi fare come all'asilo, che non è colpa mia, è colpa sua. Sì, no? Ma non è colpa mia, colpa sua. E come? È che lui si è fidato, no? Mio padre, nella sua ingenuità, si è fidato di Gino. Prima cosa, mai fidarsi di Gino il bidello, cioè, lo sanno tutti. E anche tu lo sai, bambino Alberto, dai, ti sei rotto il piede per colpa di Gino il bidello. Vero, dai. Sì, lo so, ma Gino è una persona... Scusami, vorrei fare il freestyling perché Gino è una figura troppo complessa per dirlo in due parole. E quindi devi fare... adesso facciamo freestyling su Gino il bidello. Almeno fa il freestyling. Gino! Ho capito. Allora, stavolta questa non l'abbiamo mai fatta. Stai attento a schiacciare. 12, sono due numeri. 1-2. Sì. Vai 1-2, poi... Enter con... va bene. Ma tanto la base è sempre la stessa. Tu dici numeri diversi. E io dovrei stare qua a fare freestyling davanti a voi che confondete le barre. Tutto uguale. Tutto uguale. Tutto uguale. Vabbè, dai, su, avanti. Vai con la 12. Allora fai partire o no? Vai questa. È sempre quella, è sempre uguale. Gino. Tu sei Gino il bidello. Ma il bidello, diciamo, lo fai solo per finta. Ah, bene. Perché Gino. Tu hai il secondo lavoro. E anche il triplo lavoro. Sì. E ti pagano in nero. Gino. Gino. Hai ciulato mio padre. Ma non ciularti mia madre. Vabbè, va bene Alberto. Perché quello non potrei accettarlo, no? Sì, cioè, Gino, va bene mia mamma. Cioè, la gamba, le cosce. Ma cosa? Ma allora, Gino, le gambe, le cosce, ma cosa ha detto? Le gambe, le cosce non di lo chi? So. Sta base, ma non lo so più neanche io, ormai ero partito, no? Ma sì, ma... Ma poi facevi... ma se è possibile che non arriva una base dall'inizio alla sua fine naturale? Ma è che così? La fine naturale del freestyling è lo sfinimento. Sì. Io non riesco mai, perché il freestyler, in questo caso sono io, però... deve arrivare allo sfinimento. Ma infatti tu ci arrivi, e crollare per terra, ma questo dopo 20 secondi mi sbaglia la base. No, ma sei tu che sbagli la metrica. Allora, sta storia della metrica, ma come due, allora... Non si è capita. Allora, la metrica non ci sono, cioè è matematica. La base è quella lì, la 12. Basta. Quindi, se poi c'è qualcosa basta? Non va, l'errore è sicuramente tecnico della macchina, no? Ma perché come? Non c'è la base, io vado. La base mi deve seguire, mica sono. Cioè, che io sto qua andando indietro alla base. Ma voi non sapete neanche di cosa sto parlando. Freestyling, Gindor, che cazzo stai facendo? E adesso il pallonacciometro lo paghi tu, però. Volentierissimo. Allora, vi stavo dicendo, no, Gino, mia madre no, per favore, no, perché mia madre... insomma, poi dopo, quando ci vediamo il giorno dopo, che io so che tu, ti ho visto dal buco della serratura, che mia madre era in décolleté e tu eri in ginocchio. E ora, bambini, e tutti a casa. Capa, 200 puntate, già. E la scuola finisce. No, non per noi, però. E nemmeno per il bambino Alberto. Infatti, hai notato che prima non ha minimamente accennato la fine delle lezioni, non è contento, niente. E quindi, visto che dal provveditorato non hanno detto proprio niente, presumo che lunedì saremo di nuovo qui. Cioè, qui nel senso che stiamo qui di nuovo a aspettare di attraversare la tangenziale lunedì? Certo che se va avanti così, sì. Allora, senti, facciamo una cosa, visto che sono le 200 puntate, noi ci mettiamo qua seduti sul bordo della tangenziale, ci mettiamo qua sul paracarro, fammi il posto. Ma non ci stiamo su un paracarro solo. Sì, stiamo solo in due qua e cantiamo una bella canzone per celebrare le 200 puntate, che ne so, una bella canzone sul paracarro. Una bella sul paracarro, sulle 200 puntate. Ma no, c'è un paracarro. Ma vedi come incombe? Un paracarro. Se ti siedi più al centro, incombe di più. Sì. Il paracarro. Forza, anche tu. Libera il paracarro che è dentro di te. Fiero e impassibile, segni il limite, fermo lì. Stanco di una vita al margine, col sole e con la grandine. Paracarro, paracarro. sotto, paracarro! Ma che siete? Ma non c'entra! Non c'entra! Lo diceva anche la contessa seduta sul paracarro?